si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Radio 24 in diretta per raccontare il paese migliore. Questo è Si può fare, io sono Federico Taddia, anche oggi supplente del convalescente Alessio Maurizi. Dopo il GR delle 8 saremo in diretta. Oggi parleremo dell'impatto che il libro, che la cultura può avere nelle nostre città. Partiremo da Book City, qui da Milano, arriveremo fino a Lampedusa. Poi invece faremo un salto in Groenlandia per raccontare una storia vera, una storia di passione, una storia di coraggio. Questo è Si può fare, poi i vostri interventi come sempre in diretta al telefono e via SMS, ma come consuetudine a quest'ora apriamo l'edicola di Si può fare. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. Di supplenza in supplenza, visto che Federico Taddia dice di essere il supplente del nostro Alessio, sono il supplente della sua rassegna stampa, approfittiamo per fargli gli auguri e lo aspettiamo ovviamente la prossima settimana. Le notizie oggi sono quelle della pioggia, avete sentito il reportage del nostro Andrea Ferro, avete sentito la complessità della situazione, dopo abbiamo avuto il meteo, direi che il quadro è abbastanza chiaro, un weekend ancora di passione, almeno per il nord e soprattutto per quella Liguria che assieme alla Toscana e ad altre zone ovviamente per la sua conformazione, insomma soffre per la sua conformazione naturalmente, ma anche l'abbiamo detto e lo ribadiamo tante volte per il modo in cui il territorio viene gestito. Allora ripartiamo, visto che abbiamo citato già due volte la Liguria in questi minuti, proprio dal secolo XIX, quindi il quotidiano Ligure che però apre su il tema generale di queste ore italiane. Infatti il titolo è La rabbia invade le piazze, sciopero sociale, scontri e caos e Roma si infiamma contro i rifugiati. Dunque il Jobs Act, dice il quotidiano ligure, fa dilagare la protesta malgrado l'accordo tra Renzi e la minoranza del PD. Nel taglio centrale la Liguria in senso stretto, cioè il meteo, sabato di ansia, incubo, frane a Genova, allerta 2 fino a mezzanotte. Un giorno di disdette, si apre una voragine, un palazzo evacuato a Pra. Ecco, il titolo principale, il tema delle piazze e dello sciopero, lo ritroviamo non a caso evidentemente anche sul Messaggero, quindi da Genova ci spostiamo su Roma. Caso Roma, contestato Marino, Tor Sapienza, il sindaco in visita, basta degrado, i minori tornano nel CIE ma vengono allontanati, intervista ad Alfano che dice romani stufi, non razzisti, chi li amministra eviti le miscele esplosive. Oggi sembra un po' il giorno della scoperta delle periferie, ritroveremo diverse interviste in cui appunto la nostra classe politica ci informa che bisogna lavorare di più sulle periferie. Forse sono delle interviste che, senza cadere in facili post demagogie, ma danno anche un po' i nervi, insomma, diciamolo pure, perché le periferie sono lì, le grandi città ovviamente le hanno più grandi e i problemi sono ben presenti. Bene, stamattina troveremmo, perché non le leggeremo più di tanto, molte interviste appunto di questo tenore, giustificazione da una parte sulle persone, sulle comunità che si trovano investite da queste problematiche e un invito da parte dei politici ai politici ad amministrare meglio. Tant'è quella scena che la capitale non merita, tornando al Messaggero, scrive Mario Aiello. Il giusto atto di presenza di un sindaco, ovviamente Marino, che va a portare il suo sostegno in un punto della città che soffre, si è trasformato in un atto di temerarietà. Nel suo ritardo e nella rabbia che ha provocato c'è il segno della sottovalutazione di un problema, la riprova di un approccio superficiale che si è avuto finora rispetto al disagio profondo dei cittadini dei quartieri abbandonati al degrado e sottoposti, senza averne colpe, al falso mito dell'accoglienza a tutti i costi. E direi che qui ci sono molti dei temi che vengono appunto dibattuti in queste giornate. Ancora periferia nel caos, Boldrini che dice la politica è stata assente, questo è il titolo della Stampa, da cui a centropagina emerge una storia davvero drammatica e strana al contempo. Mi riferisco al Messico, il titolo è Messico è giallo, il caso dei 43 studenti. Ancora questa vicenda che in alcuni giorni sembra conclusa, in altre si riapre, infatti il DNA estratto dalla fossa comune comune non sarebbe quello degli studenti, appunto, che sarebbero stati uccisi e bruciati. In Messico, ancora i titoli d'apertura per il Sole 24 Ore, è naturalmente i temi dell'economia e della crescita. Italia ancora in recessione. Crescita ai minimi nell'Eurozona, i consumi rilanciano Francia e Germania, nel terzo trimestre dunque PIL giù dello 0,1% sui tre mesi precedenti e dello 0,4% sul 2013. Renzi dice, dato scontato, lavoriamo per la ripresa. Nella spalla anche la notizia, appunto, arrivata ieri sera del via libera della Commissione UE all'alleanza tra Alitalia ed Etihad. C'è un ampio approfondimento, appunto, sul significato della decisione e i prossimi passi, appunto, per chiudere questo importante accordo. Per Repubblica è Jobs Act il giorno della protesta, male in Europa solo il PIL italiano. Ecco, qui c'è una sintesi tra questi due grandi temi, accompagnati da una fotografia esplicita, perché è quella di, appunto, di scudi, manganelli e striscioni, scontri tra i manifestanti e forze dell'ordine ieri a Milano, racconta la didascalia. Un altro grande tema di fatto di queste ore, di questa giornata, l'abbiamo già sentito nel corso di GR24, che ci ha portati di fatto a Brisbane, quindi in Australia, per il G20. Anche a favor di fuso orario, là le cose sono ben più avanti in questa giornata. G20, il ruggito di Putin sugli euroemarginati. Ecco, con un racconto di Federico Rampini ci spiega che questo incontro di fatto raccoglie l'85% del PIL mondiale e questo weekend si riunisce per promettere un rilancio della crescita pari a 2 miliardi di dollari, ma rischia questo incontro, di questo vertice G20 di Brisbane in Australia, rischia di essere ricordato soprattutto come il G20 dell'emarginazione europea, oltre che per una nuova tensione geopolitica con la Russia sull'invasione dell'Ucraina. La stessa collocazione geografica di questo vertice diventa dunque simbolica, lontano, lontano, lontano e decisamente più vicino all'Oriente, alla Cina, al Giappone, all'Indonesia, insomma, alle tigri e dintorni, di quanto non possa essere rispetto all'Europa. Infine, ancora due titoli d'apertura. Da una parte Corriere della Sera, gli scontri dello sciopero sociale, e parliamo di tutt'altro tema, Mancio is back, la Gazzetta dello Sport, clamoroso all'Inter, Mazzarri silurato, torna l'uomo dei tre scudetto, e subito Mancini dice punto al terzo posto, Tohir con lui in alto, e staremo a vedere. Tra l'altro, se non ricordo male, c'è già un derby in attesa, come dire, potrebbe essere una partenza calda in un senso o nell'altra per Mancini, che torna dunque ad allenare a Milano. Ecco, Tor Sapienza in primissimo piano, sono molti i racconti, comincio a segnalarvene un paio. Da una parte quello di Daniele Vicari oggi sul Manifesto, che racconta da cronista la Tor Sapienza che conosce, che ha esplorato negli anni, e dice tra l'altro, è un lungo reportage, bisogna dire che passarci a piedi si capisce molta della rabbia dei cittadini. È sporco, ma come fanno i bambini a giocare qui in mezzo? Marciapiedi che improvvisamente finiscono nel nulla, lampioni piantati al centro degli scivoli per disabili, monnezza. Penso che se il posto in cui stai fa schifo, prima di prendertela con l'ultimo dei rifugiati dovresti prendertela con te stesso, che ci abiti e fai poco o nulla per migliorare la situazione. E magari pisci anche tu in quel cespuglio dove al mattino va a giocare a nascondino tuo figlio. Mi do ragione da solo, dice Vicari. Mi do ragione da solo, ovviamente, come tutti ben pensanti, ma c'è sempre il piccolo dettaglio, dice, che io non abito qui. Mai visti nella capitale questi conflitti etnici, se si pensa solo al centro le periferie si ribellano. Stesso tema, taglio diverso, in questo caso un'intervista su Repubblica, pagina 15, Giuseppe De Rita, dunque un sociologo, un uomo con una lunga esperienza, De Rita 82 anni, sapete, presidente del Censis, dice in sostanza: finora a Roma non c'erano mai stati conflitti etnici nelle microaree. Questo è l'aspetto nuovo e davvero preoccupante di questa vicenda. Il problema, dice, è che Roma è amministrata dall'alto, con una cultura di vertice, e ci si è concentrati di più sulla pedonalizzazione del centro storico, Viale dei Babuino o Fori Romani, che sulle periferie. Per carità, aggiunge, all'intellettuale e al romano medio la cosa è piaciuta moltissimo, ma Roma non è solamente la grande bellezza. A proposito di Roma, ancora Tor Sapienza, Baby Squillo davanti a scuola, ma su questo tutti stanno zitti. Titola invece in prima pagina il Fatto Quotidiano. Nel quartiere della rivolta ci sono minorenni che si prostituiscono accanto ai transessuali e vicino agli ingressi di un asilo e di un istituto superiore. E ancora le periferie delle figlie di nessuno è il titolo dell'articolo, del racconto di Daniela Ranieri. Ci torniamo tra un momento, ora sono le 7.45 in punto, è tempo di sentire come vanno le cose sulle strade. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono le 7.46 minuti e questo paese migliore questa mattina fatica un pochino ad emergere dai nostri titoli. Ancora eravamo in zona Tor Sapienza, dunque vi segnalavo il titolo Baby Squillo davanti a scuola tutti zitti, perché è interessante, perché in questo racconto firmato da Daniela Ranieri la sintesi giustamente nel titolo dice: non sono figlie nostre e dunque tutti zitti, fingiamo di non vedere. Quelle ragazzine sul marciapiede apparentemente invisibili provano che l'affare di Tor Sapienza è un coacervo di cecità, città, ipocrisie. Sembrava che stavolta non si potesse tirare in ballo Pasolini con Valle Giulia e tutta la retorica dei poliziotti figli del popolo contro i facinorosi figli di papà. Qui si tratta di disgraziati, o quasi, che attaccano chi sta peggio di loro, mentre lo Stato osserva, aspetta e cede un po'. Ecco, non sono figlie nostre, tutti fingono di non vedere, eppure, ricorda l'articolo, i consumatori sono gli stessi, le prostitute giovani sono diverse dalle Baby Squillo del Parioli, però i clienti sono gli stessi, romani in linde monovolume, non immigrati. Infine, baraccopoli e campi nomadi abusivi, Roma è una bomba ad orologeria, nell'approfondimento del Messaggero troviamo appunto una mappatura della città complessa e di come nella fascia del grande raccordo anulare appunto all'interno della grande strada del Gra ci sia appunto una massa delle complessità. Naturalmente è ovvio che questo genere di centri tenda a essere costruito nelle periferie, quello che non è ovvio probabilmente è che le periferie di per sé vengano progressivamente abbandonate o comunque non gestite per arrivare appunto a produrre quello che abbiamo osservato a Tor Sapienza, che osserviamo in questi giorni. Vi ricordo che peraltro oggi sarà una nuova giornata di manifestazioni, le seguiremo, vi racconteremo con la cronaca quanto accade. E ora cambiamo tema, andiamo su il Jobs Act, una sintesi dalla Stampa stamattina a pagina 6, NCD approva il Jobs Act, ora la battaglia tra i Dem si sposta sui sussidi, la minoranza chiede 1,5 miliardi in più per i disoccupati, Guerrini alla CGIL, noi ascoltiamo tutti anche chi non sciopera. Questo ovviamente è rivolto ai diciamo ai sindacati che non hanno aderito con la CGIL allo sciopero generale del 5 dicembre. Carlo Bertini scrive: Matteo Renzi vola in Australia per il G20 a Brisbane e lascia ai suoi uomini il compito di rispondere alle sfide della piazza lanciata dalla CGIL. In sintesi, dice Guerini, abbiamo massimo rispetto e attenzione nei confronti del disagio sociale, ma le risposte alla crisi il governo le ha costruite nella legge di stabilità. Ci sono misure importanti di sostegno al reddito per abbassare la tassazione sul lavoro. Vogliamo capire se il 5 dicembre si protesta contro l'estensione delle tutele del Jobs Act, contro il disboscamento delle forme contrattuali, contro gli incrementi di risorse per gli ammortizzatori sociali, contrattacca dunque il vice segretario PD. Insomma, al netto di quale sarà la piattaforma, noi ascoltiamo tutti, anche le sigle sindacali che non aderiscono allo sciopero generale, dice ovviamente riferendosi alla spaccatura nel sindacato. Di spalla segnalo anche le minacce a Taddei, dunque uno dei consulenti economici, economista del PD, grave minaccia a Taddei assegnata alla protezione. Questo accade a Bologna, ovviamente città che ha un senso particolare nel racconto dei temi del lavoro. Prima hanno usato il web, poi le minacce sono arrivate tramite biglietti fatti trovare vicino all'abitazione di Bologna, per non parlare poi di qualche scampanellata sospetta al citofono di casa. Insomma, minacce e preoccupazione che fanno scattare una protezione. D'altra parte, questa è la città dove Marco Biagi venne ammazzato dalle nuove Brigate Rosse dopo che era rimasto senza scorta. Nel caso di Taddei, 38 anni, sposato, con tre figlie, docente alla Johns Hopkins University, gli è stata affidata una protezione tesa a tutelare lui e la sua famiglia. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha parlato di minacce gravi e ingiuste. Ha aggiunto: non ne addebito la responsabilità a chi in modo trasparente, anche se io non condivido, dice lui, si oppone al Jobs Act. Però facciamo tutti attenzione che il giacimento degli imbecilli è sempre a disposizione. Attenzione ai toni che usiamo. Insomma, una dichiarazione, direi, chiarissima in una città, appunto, con la storia anche recente di Bologna. E abbiamo citato Brisbane e l'Australia e naturalmente Renzi, che stamattina ha avuto un lungo incontro con Vladimir Putin, dunque il presidente, ormai così giusto a titolo di cronaca, da 15 anni tra presidenze e primo ministro presidente, quindi il grande capo della Russia. Perché ve lo segnalo? Perché sulle pagine interne del Corriere, a pagina 13, c'è un'intervista al nostro ministro degli esteri Gentiloni, in cui ritengo in particolare particolarmente interessante un passaggio che riguarda la Russia. Sostanzialmente dice: Kiev non dovrà in futuro entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica. Magari l'avrà già detto, io non avevo mai notato una dichiarazione così esplicita, proprio in una fase in cui, come forse avrete sentito anche nei nostri programmi, una parte importante della dirigenza ucraina in realtà punta esattamente a quello, punta a fare come ha fatto, tanto per fare un esempio, la Polonia, quindi un paese di confine con l'est e con il mondo russo, a entrare sotto l'ombrello della NATO. Ecco, Gentiloni dice una cosa precisa, dice: condivido due sottolineature di Stoltenberg, quindi NATO. La prima, che l'Ucraina non fa parte della NATO, e questo ha evidentemente delle implicazioni non banali, e l'Italia dà per scontata questa non appartenenza anche per il futuro. La seconda cosa è che non esistono soluzioni militari. Insomma, una presa di posizione molto precisa, che da un lato sembra una mano tesa alla sensibilità e alle sensibilità della Russia, che d'altra parte lamenta invece una spinta verso Oriente della NATO e dei suoi interessi, e staremo a vedere. Vi segnalo dunque ancora, questo è Gentiloni, nella pagina 13 del Corriere della Sera questa mattina. Ancora interviste, almeno dal primo piano della Stampa, visto che abbiamo un ministro degli esteri, vi segnalo quello della ministra della difesa, Roberta Pinotti, che dice: troppe crisi aperte, tagliare la difesa è una scelta miope. Limito semplicemente un passaggio in cui parla di Libia nel caos, di due parlamenti contrapposti, di un'assenza di governo. Dice, insomma, senza voler essere belligeranti o chissà che, il ministro della difesa sostiene che questo non è affatto il momento corretto per tagliare le spese operative di strutture militari in un contesto del Mediterraneo così caldo. Questo è Roberta Pinotti. Eccoci qua, diciamo che siamo verso la conclusione, abbiamo però ancora il tempo almeno di segnalarvi quello che vi ho anticipato dalla Stampa, il caso davvero incredibile del Messico, il mistero degli studenti viene definito, una lunga intervista appunto a uno degli scampati di quella notte. Io scampato a quella notte dico che i miei amici sono ancora vivi, il DNA estratto dalla fossa comune non corrisponde a nessuno dei 43 ragazzi spariti, un sopravvissuto del Raid Aigualar dice le autorità sbagliano a cercare dei morti. E con questo direi che è tutto per la rassegna stampa, quando sono le 7:54 minuti 58 secondi. Un grazie a Gigi Donelli, adesso il GR, poi subito dopo Si può fare. Vi ricordo 800 24 00 24. Oggi la domanda con cui apriremo la puntata, aspettiamo i vostri interventi, è questa: qual è il libro che vorreste regalare al vostro sindaco e perché? Giochiamo un po' con l'impatto, con la cultura che i libri possono avere con le nostre città. Apriremo con Stefano Boeri, che nel 2012 inventò qui a Milano Book City. Andremo fino a Lampedusa. Si può fare fra pochissimo, subito dopo il GR24. 'cause you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Voi non potete vederlo, ma lui balla, lui con le sue cuffie in testa, lui seduto davanti a me, lui vorrebbe salire su questo tavolo e fare il balletto. Lui è Carlo Gavardini, padrone di casa qui a Si Può Fare. Ciao Carlo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Federico. Federico Taddia, ancora supplente per l'ultimo weekend. Ma lei, chi lo sa, sta bene. Per no, lo fortuna, so che sta bene, si so è rassicurato, ma sa la potrebbe voce. Esserci sempre una ricaduta, non si sa mai. Credo, ovviamente, ma tu sai spero, che lo sta facendo spero. Adesso in questo momento con le sue mani. Sta bene, la voce ritorna, il dottore gli ha dato il benestare, quindi dal prossimo weekend sarà qui. Ci sarà di sicuro, nuovo. Mi ammalerò io magari. Ma fate a turni. Facciamo a turni, ed è tutto un trucco per mantenere Federico qua sempre. Si può fare in diretta un paio d'ore per raccontare l'Italia bella, l'Italia che c'è, l'Italia che si muove, anche l'Italia quella più critica, però poi ci sono i cittadini, ci sono le persone che fanno la differenza, noi cerchiamo di raccontare questa Italia. Oggi, Carlo, inizieremo parlando del rapporto che c'è tra le città e la cultura, e in particolare tra il libro e la città. C'è un weekend molto importante a Milano, che è quello di Book City. Io arrivo nella notte da Cuneo, dove c'è Scrittore in Città, altro festival importante. Quindi volevo lanciare proprio un invito subito ai nostri ascoltatori a giocare con i libri oggi. Quindi l'invito è 800 24 00 24, il nostro numero verde, oppure 349 238 6666, per chieder loro qual è il libro che vorrebbero regalare al proprio sindaco. Esattamente. E perché? Così, una lettura da consigliare al sindaco. Che è anche un bel modo, secondo me. Poi magari, anche se uno vuole criticare un sindaco, lo fa semplicemente con il titolo di un libro, senza, diciamo, tirare delle pietre dentro nei vetri, sì, giusto? Mi sembra un buon modo. Anzi, tirando un libro, forse, dentro nei Campidogli. Quindi 800 24 00 24, qual è il libro che vorreste regalare al vostro sindaco? Come sempre, l'idea più bella verrà premiata. Oggi ne paglio due biglietti per la mostra di Van Gogh qui a Milano. Infatti Book City è molto presente a Milano, devo dire. Io, avendo uno spettacolo, come ben sai, perché ne ho parlato settimana scorsa, che è uno spettacolo che ho scritto, che come si chiama Amen, sta andando molto bene al Teatro Leonardo. Però è molto interessante, perché tutte le persone ti dicono non posso venire perché oggi vado a Book City. Quindi vanno tutti a Book City. Invece vorrei che qualcuno andasse anche al Teatro Leonardo, che comunque c'erano più di 200 spettatori, quindi siamo molto contenti, dove c'è questo spettacolo che si chiama Amen, con Walter Leonardi, che io ho solo scritto. Diciamo, avviso tutti, non è uno spettacolo sull'omosessualità, di modo che siano tutti tranquillizzati, perché sennò uno magari pensa che sia quello. Tra l'altro, andate a teatro ma senza libro, perché non è bello andare a teatro con un libro, perché insomma, soprattutto perché è buio. È buio, poi non è corretto nei confronti di chi è in scena, insomma, mettersi esatto. A leggere un libro. Okay. E invece la notizia che ho seguito con grandissima trepidazione tutta la settimana è quella che abbiamo dato noi la settimana scorsa, ovvero la missione Rosetta. Non so se, perché la cosa che mi ha colpito molto, che non sapevamo che ci fosse questo problema, è che tu insegui con una sonda, un satellite, questa cometa per 10 anni, arrivi finalmente a raggiungere questa cometa, sganci il robottino che arriva sulla cometa, e nel momento che il robottino è sulla cometa si è scaricata la batteria completamente. Questa è stata la notizia dell'altro ieri, che è veramente, sembra una storia nostra, che tu hai ed è la classica storia da telefonino proprio, che arrivi e si scarica. Però pare che la sonda potrebbe ripartire con la luce del sole intorno a quest'estate, quando sarà più vicina alla luce del sole, forse riparte. Però la missione sta andando benissimo. Hai studiato, Carlo? Ho studiato molto. Mi hai sorpreso, Rosetta proprio ti ha preso. Mi ha preso, me l'hai spiegata tu, questo possiamo dirlo, perché ovviamente, come dico sempre, io sono lo stupido dei due, il giornalista è Federico Taddia, di solito è Alessio Maurizi, ma degnissimamente sostituito. 800 24 00 24, quale libro vorreste regalare al vostro sindaco? At home, sitting in my favorite nook, a girl's trying to get me eat some dinner she cooked. I'm reading a book, girl, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. On the shoulder, I got pulled over. Pigs trying to get me while my window lower. I'm reading a book, pig, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me. Dare una svegliata alla città partendo dal libro. C'era questa intuizione nel 2012, quando a Milano è nato Book City. E chi ha avuto questa intuizione era l'assessore all'epoca qui a Milano, l'architetto Stefano Boeri, che abbiamo il piacere di avere qua con noi. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, si può ripensare a una città partendo dal libro, partendo dai libri, prendendo il libro come metafora principale di quello che è la cultura? Ma senz'altro sì, Milano è stata una delle capitali del libro, una delle capitali nel senso che ospita le grandi case editrici, ma non è mai stato un luogo dove si è riusciti a trasformare l'esperienza della lettura in una grande manifestazione culturale. Nasce l'idea nel 2012 insieme alle fondazioni, soprattutto le fondazioni degli editori, di immaginare qualcosa che non fosse un salone, che non fosse neanche semplicemente un festival, ma fosse una, appunto, una manifestazione di lettura popolare, cioè un tentativo di pensare che la città si mette a leggere, si mettono a leggere i gruppi di lettura, si mettono a leggere gli spazi delle biblioteche, gli spazi delle riviste, gli spazi degli editori e si muove un mondo che è un mondo diffusissimo, perché appunto chi lavora attorno alla pratica della lettura parte dalle scuole, arriva al mondo appunto dell'editoria, al mondo delle biblioteche, tutte le biblioteche pubbliche, le biblioteche dei musei, le biblioteche degli ospedali, le biblioteche delle carceri, le biblioteche delle scuole. E quindi viene fatto un appello a tutti quelli che hanno voglia di praticare una forma di lettura in pubblico. Riceviamo subito 300 adesioni e così nasce l'idea di concentrare in 3 giorni questi momenti di lettura in pubblico e nasce Book City. E questa cosa poi cresce, in questi giorni sono quasi 900 gli eventi diffusi nella città, quindi è una, ripeto, è una forma di lettura popolare. Una lettura popolare, ma soprattutto un impatto quotidiano, no? Quanto la cultura, quanto un libro possa trasformare una città. Stefano, farei una domanda all'architetto in questo caso. È ipotizzabile ripensare le città partendo dai libri, quindi rimodellare quella che è una visione, quella che è un pensiero, no? della città, però partendo da lì, partendo dal libro, partendo dalla cultura, partendo da una fruizione che sia spontanea, che sia diretta? Ma assolutamente sì, nel senso che le città sono comunque degli spazi da percorrere, attraversare, e l'esperienza dell'attraversamento assomiglia molto all'esperienza della lettura, quindi questa cosa già avviene. Il grande tema è se le letture che noi facciamo quotidianamente in alcuni momenti riescono a trasformarsi in una lettura collettiva. Questa è la vera grande sfida di una città, perché alla fine una città ha bisogno di un racconto sul proprio futuro, e questa cosa non è semplicemente una costruzione artificiale, ma nasce dai racconti che le vite quotidiane tracciano nel percorso della città, è la politica, è la migliore politica. Quindi, se vogliamo, questo è un modo con cui la città viene eletta. Però io direi anche che la cosa poi più interessante è che le città oggi sono delle fabbriche diffuse di cultura. Noi continuiamo a pensare che le città abbiano un mondo, da un lato l'utenza e dall'altro abbiano le grandi istituzioni che producono cultura. Non è così, perché Napoli, Torino, Milano, Genova sono luoghi dove ci sono centinaia di utenti che fanno cultura, che scrivono, che leggono, che pubblicano, così come fanno musica, fanno design, fanno moda, fanno letteratura, fanno teatro, fanno cinema, ed è questa potenza diffusa che bisogna saper attivare. Per questo Book City è un evento importante, perché attiva un'energia che è un'energia che sta dentro, nelle strade, nelle piazze, nei quartieri, nelle città. Certo, insomma, là dove ci sono i cittadini. Stefano, anche a te faccio la domanda che oggi stiamo facendo ai nostri ascoltatori: c'è un libro che regaleresti a un sindaco, se non proprio al tuo sindaco? No, io direi al tuo sindaco comunque, direi proprio a Pisapia, direi. Okay, ciao Stefano, sono Carlo Gabardini. Beh, c'è un bel libro di... C'è un libro che si chiama L'incolore, beh, appena uscito tra l'altro, sì. di Murakami, forse L'incolore e Tazuko potrei regalare, sì. Ok, quello va bene, lo segniamo. Grazie Stefano, buona giornata. Grazie, buona giornata. 800 24 00 24, il nostro numero verde. Voi quale libro regalereste al vostro sindaco e perché? 349 238 6666 per i vostri sms. Dovevamo chiedere forse meglio il perché, perché probabilmente sotto sotto era un messaggio politico incredibile quello di Stefano Boeri con il libro, ma non abbiamo avuto, diciamo, cuore di chiedergli a gamba tesa perché. Tu l'hai pensato a quale libro regaleresti al No, sindaco? Ma ho un'ora e mezza, direi che non vorrei prendermi così in castagna. No, infatti, ti faccio la domanda e poi abbiamo tempo per pensarci. Studio durante l'intervallo. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua, in diretta con Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Paese migliore, magari partendo proprio da un libro. Vi abbiamo chiesto all'800 24 00 24: qual è il libro che vorreste regalare al vostro sindaco? Le indicazioni più belle oggi vinceranno una coppia di biglietti per la mostra di Van Gogh a Milano, oppure via SMS al 349 238 6666. Carlo, ricordiamo che però per vincere bisogna telefonare, cioè l'SMS non è sufficiente per vincere, però gli SMS ce n'è di bellissimi, tipo ci propongono una sintassi italiana al sindaco De Magistris, perché impari l'uso del congiuntivo. Ci scrive Mirella De Simone, che però poi sbaglia l'accento di perché dentro nel suo SMS, perché l'accento di perché, diciamo, va nell'altro senso, ecco. Poi La città della gioia, non tanto per il contenuto quanto per il titolo, ma non ci viene indicato a quale sindaco, però direi che va bene un po' per tutti i sindaci, è il classico libro per tutti i sindaci. E poi abbiamo un Pinocchio, un grande classico di anche questo direi che non ci venga indicato a quale sindaco, e soprattutto Le città invisibili per il sindaco Marino. Quello è, e non solo per lui. Gli regalerei Le città visibili in realtà, ma comunque. Sai, ogni tanto il sindaco, qualsiasi sindaco, dovrebbe aprire probabilmente un po' gli occhi e guardare per davvero quello che accade nella propria andato, città. Ieri il sindaco c'è andato poi nel quartiere, si è beccato un sacco di fischi, ma c'è andato, diciamo, un po' in ritardo. E adesso invece andiamo a Lampedusa, perché c'è un'esperienza in atto, un'esperienza che va avanti da un paio d'anni, però questa settimana uno dei suoi momenti più importanti, che è un'esperienza semplice, facile, no? Se uno ci pensa e dice vabbè, cosa ci vuole? A Lampedusa stanno cercando di aprire una biblioteca, perché manca la biblioteca, ci sono un migliaio di bambini sull'isola ma non c'è la biblioteca, che comunque è luogo di socializzazione, è luogo di cultura, è luogo di incontro, è luogo di la biblioteca o l'isola, sia l'isola anche ma in l'isola. Particolare la biblioteca, perché comunque non so, tu da bambino andavi in biblioteca, la frequentavi? Perché io sono nato in un paese, la biblioteca comunque era cuore aggregante. Sì, non proprio da bambino, un po' più avanti a Milano, diciamo, si va alla Sormani di solito, quando si tra la fine del liceo e l'università. Poi avendo fatto la scuola tedesca, cioè in biblioteca era difficile trovare dei testi in tedesco, quindi andavo nella biblioteca della mia scuola, ecco. Deborah, cosa rappresenta, cosa rappresenterebbe per Lampedusa una biblioteca? Buongiorno a tutti. Sì, io sto curando con questa associazione che si chiama IBI questo progetto per aprire una biblioteca in un'isola che è remota, diciamo, per tutti i punti di vista. Quindi ci siamo accorti di questa mancanza, che è una mancanza però che anche urla, diciamo, un diritto che vale per tutti i bambini d'Italia, cioè quello di crescere in contatto con la cultura del loro tempo e con la possibilità di conoscere i pensieri di altri che non siano per forza solo i loro familiari o la loro stretta cerchia o quello che viene dalla scuola. E quindi stiamo portando avanti questa che ormai è tipo una battaglia, anche se è una battaglia molto pacifica, ma tentiamo di trovare i fondi per rifare dei lavori in un luogo che vada bene per i bambini, bisogna trovare dei libri, bisogna trovare volontari, quelli ne abbiamo molti e molte persone ci seguono. E dal 20 novembre, che è la giornata internazionale dei diritti del fanciullo, saremo a Lampedusa con un gruppo di volontari per la terza volta e proporremo con la scuola una serie di attività che diciamo attivano la popolazione anche sul fatto della necessità e del bisogno di avere dei libri e un contatto più presente dell'editoria per ragazzi sull'isola. Deborah Soria di IBI, che è questa associazione fondata nel dopoguerra Germania, appunto, militanti per il libro, questo mi piace. Beh, ma tu non sei arrivata però proprio subito nel dopoguerra, sentire dalla voce direi che sei un po' più giovane, o sei la fondatrice? Non sono la fondatrice, no, la fondatrice si chiamava Jella Lepman, era una giornalista ebrea tedesca che andò ad aiutare dopo per la ricostruzione, ebbe questa geniale idea di fare una mostra di libri nella Germania post-nazista, e fu la prima mostra vera che ci fu in Germania, e era una mostra libera e chiese a tutti i paesi del mondo di mandare i loro migliori libri per i bambini tedeschi, ovviamente ottenendo anche tantissimi rifiuti. Alcuni dissero: ma che io i tedeschi non li aiuterò mai, neanche dopo quello che hanno fatto. E invece lei diceva: i bambini non hanno colpa, se questi bambini non vengono curati, insomma, cioè non va bene, non è a loro la colpa della guerra. E quindi nacque questa associazione di persone che si occupano dell'editoria per ragazzi e della qualità dell'editoria che viene proposta ai ragazzi. Deborah, adesso c'è questo campo di volontariato, però ci sono già state delle finestre di apertura, no, di biblioteche temporanee sull'isola, sempre grazie a voi. E cosa succede in quei giorni? Cosa si scatena sull'isola quando la biblioteca si apre? È molto emozionante, devo dire, perché questi bambini, che sono dei bambini del 2014, hanno tutto, hanno l'iPad, hanno il telefono, insomma sono normalmente evoluti come dei bambini normali alla scuola, quindi, però non hanno mai visto veramente dei libri illustrati, non hanno mai visto delle persone che si attivano per leggere dei libri insieme, e quindi c'è una specie di fervore. La mattina facciamo delle finte tessere finché la biblioteca non c'è, e vedi questi bambini che trascinano i loro genitori e dicono: la biblioteca, vogliamo andare in biblioteca. Quindi è abbastanza divertente. Devo dire che un giorno stavo all'ultimo campo, stavo seduta in un bar e vedevo dei ragazzini adolescenti che cantavano per strada, e ho pensato tra me: alla fine gli adolescenti tutti uguali, così bighellolano, cantano per strada. Quando mi sono passati vicini invece stavano cantando, avevano inventato una specie di motto e cantavano: si vede, si sente, la biblioteca è presente. Quasi una cosa commovente, diciamo. Ascolta, guarda, c'è un messaggio al volo, sono due, vai Carlo col primo. Ma che ho visto. C'è un messaggio che dice: alla signora sindaco di Lampedusa il libro Costi e consumi dell'acqua in Italia, visto che hanno scambiato l'acqua per vino DOC. Siccome stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di chiamarci consigliando un libro che vorrebbero regalare al loro sindaco, essendo tu, diciamo, essendo a Lampedusa, ci chiedevamo come mai secondo te propongono di regalare questo libro al sindaco di Lampedusa? Ma perché secondo me alla fine non avere, poi io riporto tutti i libri perché quello è il mio mestiere, la mia passione, ma non avere un contatto con la comunicazione che nei libri c'è, significa anche non saper comunicare. Sull'isola c'è un problema di acqua perché loro l'acqua la comprano, però per esempio se voi andrete mai in vacanza a Lampedusa, in nessun posto ti dicono che l'acqua di Lampedusa viene da fuori, quindi tu ti fai la doccia in modo normale. Se ti dice anche ci fosse solo un adesivo su un lavandino che dicesse: occhio, noi l'acqua la compriamo, per favore usatene di meno, uno non avrebbe nessun problema a usarla con un po' più di parsimonia. Infatti, quindi questo è giusto. Mentre, adesso ho capito. Mentre Gabriele che dice, però in parte hai già risposto, nel 2014, nell'era della digitalizzazione, è anacronistico aprire una biblioteca. Credo che Gabriele non abbia idea dell'impatto socializzante che abbia una biblioteca. Con noi a fare il volontario vedrebbe quanto è sbagliato questo, quello che dice. Per imparare a leggere anche un device digitale bisogna essere capaci di leggere un'immagine e di essere capaci di ascoltare una frase fino in fondo senza distrarsi prima. E questo viene dall'abitudine a leggere da quando si è piccoli, e quindi da un'abitudine al testo scritto e al testo illustrato, e da un'abitudine di essere capaci di guardarlo e di entrarci e capirlo e criticarlo e essere capaci di leggere. Però, come si chiama poi leggere? Però se posso dire, nel senso, è una domanda che avrei fatto anch'io, nel senso che prima giustamente tu dicevi i giovani sull'isola, il modo con cui, diciamo, si procurano e raggiungono la cultura. Effettivamente oggi nel 2014 immagino che i giovani di Lampedusa abbiano un accesso alla cultura che è molto più attraverso la rete. Forse la vera cosa da dire è che una biblioteca, nonostante il nome biblioteca, non significa semplicemente un luogo dove ci sono dei libri in uno scaffale, nel senso che una biblioteca è molto altro, è il luogo, è anche il luogo, paradossalmente anche il luogo nel quale dovrebbero venire collezionati i cosiddetti ebook, perché in qualche modo l'accesso può venire da lì, o comunque dove si insegna la lettura, giusto? Ma come sempre in quest'era di grandissime informazioni hai sempre bisogno di una guida, cioè se vuoi leggere un libro ma non sai neanche che cosa digitare sul tuo Google o come cercare quello che, non è per un ragazzo, comunque non è semplice trovare quello che cerca. Un bibliotecario è una persona che ti apre la strada di un mondo culturale e ti dice: guarda, secondo me a te potrebbe piacere questo, e ti fa anche avere delle buone esperienze prima, perché poi se tu incappi in un libro terribile e pensi di doverlo leggere, improvvisamente pensi che leggere è una noia mortale perché il libro che hai scelto, mi sembra un esempio molto buono, perché di solito, cioè, diciamo, i bibliotecari sono preparati per consigliarti dei libri, invece magari Fuffo 88 che ti manda un tweet non è detto che ti consigli il libro ideale per te. Esattamente. ibi.org oppure bibliotecasalaborsa.it per tutte le informazioni sul camp di Lampedusa di IBA, terza edizione dal 20 al 26 novembre 2014. Grazie Deborah, complimenti. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua in diretta con Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 0024 il numero verde per chiamarci in diretta e raccontarci, suggerirci qual è il libro che vorreste regalare al vostro sindaco. Vincenzo da Roma. Ciao Vincenzo, buon sabato. Buongiorno a voi. Eccolo. Buongiorno. Ciao, come stai? Bene, grazie, tutto a posto. Io sono un fedele ascoltatore di Radio 24. Bene, questo ci fa piacere. Sei anche un lettore? Sei un appassionato di libri? Allora, posso dire la mia? Certo. 45 anni di lavoro sulle spalle, di cui, diciamo, 40 passati avanti e indietro tra Roma e Ostia. Sì. E ho una media di 4 libri al mese. Certo, vedi, sei un pendolare della lettura. Sì, c'ho a casa che non so più dove metterli praticamente. Beh, è una buona notizia. Consumo piacere di mia moglie comunque. Vabbè. Così va. E che libro regaleresti? E a che sindaco? Sindaco Marino. Sì. Il libro mi è capitato tra le mani l'altro giorno, si chiama L'arte di oziare di Seneca. E come mai questa scelta? Perché io, guardate, io l'ho votato, non c'ho nessuna remora a dirlo, e ho cercato di capire dall'inizio tutte le scelte che ha fatto, ma adesso guardando lo stato di Roma, mi dico, guarda, Ozia che forse fa meno danno. Ok. Però, chiusa così, va bene, mi va benissimo. Mi sembra un'ottima chiusa. Sì. Grazie Vincenzo, ciao, buona lettura. Visto che insomma... grazie a voi. No, quello che dico è che se qualcuno pensa che qualcun altro ozzi troppo, uno gli regala l'arte di lavorare, non l'arte di oziare. Per questo... Però, insomma, è un ozio in un altro senso, è quasi un ozio inteso come un prepensionamento, come per dire, ecco, vai ad oziare, mi sembra di aver capito. Dalla provincia di Alessandria, invece, ci chiama Laura. Ciao Laura, buon sabato. Ciao Meraviglia. Ciao Meraviglia, è bellissimo, lo vorrei proprio come slogan. Voglio farmi un tatuaggio e la maglietta anche. Ma è chi dei due tra l'altro Meraviglia? Tutti e due. Ah, perfetto. Questa è la mia radio preferita. Sono qui in una chiesa che sto restaurando. È una cosa fantastica sentire. Ascolta, ci chiami dalla chiesa? Sì. Ottimo. Va bene, dici. Allora, io al mio sindaco, che si chiama Celeste, che è una donna meravigliosa, regalerei un libro edito dalla Fenice, sì, Boves, che si intitola Le erbe velenose del Piemonte. Le erbe velenose del Piemonte? Come mai questa scelta? Perché bisogna conoscere il proprio nemico per conoscere i propri amici. Beh, bellissimo. Direi che oggi gli ascoltatori ci stanno insegnando delle cose, direi. E poi oltretutto non costa neanche tanto, come dico. Che poi hanno editato anche erbe mancherecce e altre cose, cioè erbe spontanee. Ma non è un libro che ha scritto lei? No, io ne sto scrivendo uno che poi vi manderò in copia. Ok, va bene, va bene. Lo aspettiamo. Fatelo finire. Va bene. Mi dico, quando lo fai? E chi caspita, è il primo che scrivo. Un attimo. Non dica le parolacce che è anche in chiesa, signora. Esatto. Grazie Laura, buon sabato. Ciao. Grazie, arrivederci. Andiamo a Milano invece da Carlo. Ciao Carlo. Ciao a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buon grazie, buongiorno. Qua a Milano ci chiamiamo tutti Carlo, per quello. Sì. Ottimizzate. Vai, dici il tuo libro. Ah, Allora, il libro che regalerei a Pisapia, sempre che sia lui ancora il sindaco di Milano, perché è un po'... Beh, per stamattina direi di sì, insomma, fino a mezzogiorno speriamo di sì. Ma boh, speriamo, magari anche prima, vabbè. A parte questo, no, gli regalerei Semina il vento di Alessandro Perissinotto. Una bellissima storia sulla difficoltà dell'integrazione, sulla difficoltà dei rapporti fra... persone di etnie diverse e su quanto poco o nulla fanno le città per favorire l'integrazione. È bello. Beh, sì. È un libro che a me è piaciuto tantissimo, ho fatto fatica a farlo leggere ad altre persone, ma è un libro che ho trovato bellissimo. Tu, Carlo, di cosa ti occupi nella vita? Io lavoro in assicurazioni, mi occupo di rischi, una bella cosa. Penso che buona parte degli ascoltatori mi stia odiando in questo momento. No, volevamo capire anche per il libro, nel senso che semina vento raccoglie tempesta, diciamo, quindi per le assicurazioni è straordinario. Poi oggi è la giornata buona. Esatto. Oltretutto. Io ho scoperto la lettura grazie a mia moglie, per colpa di mia moglie, perché era un video dipendente fino a quando a un certo punto non mi ha convertito. Ti sei sposato? Un di libri da leggere. Ti sei sposato molto giovane o hai scoperto la lettura molto tardi? No, né l'una né l'altra, diciamo. Ho scoperto la lettura un po' prima di sposarmi. Mi sono sposato in quella che ormai è un'età media. Va bene. Sai, qui facciamo anche indagini statistiche, noi si può fare. Sì, grazie. Diciamo, non giovanissimo per altri tempi, ma ormai. Mi ero stupito perché dice: mi ha fatto scoprire la lettura mia moglie. Uno dice: vuol dire che non ho letto un libro fino ai 30 anni, volevo capire questo, era per questo che chiedevo. No. Ho iniziato un po' prima. Ottimo. Ciao Carlo, grazie. Buon sabato. Andiamo a Ferrara da Antonella. Ciao Antonella. Buongiorno a te. Allora, quale libro consiglieresti al tuo sindaco? Consiglierei di Marion Molteno, Una lingua in comune. In comune nel senso proprio di municipio? E io giocherei anche su quel termine, nel senso che una lingua in comune, nel senso che sia condivisa, certo. Perché mi sembra, ascoltando la cronaca non soltanto di questi giorni, che le zone delle varie città, e dunque dedicherei il libro non soltanto al mio sindaco, ma anche a tutti i sindaci d'Italia. Ma stiamo parlando del sindaco di Ferrara? No, anche, ma io lo estenderei proprio a un discorso di dedica al sindaco in generale. Come figura istituzionale, diciamo. Sì, infatti, perché le zone delle città mi sembra, come dicevo, che siano sempre di più divise, separate, e dunque a maggior ragione occorre che possano una lingua attraverso la quale possano comunicare. Periferie, centro, anche perché tutte le città, anche la mia, che è una cittadina di provincia, sta diventando sempre più multietnica, e a maggior ragione periferia, centro e vari quartieri in cui si stanno insediando anche persone che parlano lingue differenti. Sì, ma insomma, una lingua comune proprio come, appunto, come metafora dell'incontro e del meticciato. Grazie davvero Antonella per questa dritta, ottima, ci piace. 800240024 per continuare a segnalarci quale libro vorreste consigliare al vostro sindaco, oppure 349-238-6666 per farlo via SMS. Carlo, vuoi lanciare il GR? E adesso c'è il GR, ci sentiamo dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. Fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Church Touch di Ozier, la canzone scelta e proposta dalla nostra ascoltatrice Simona Capoti. È una canzone che è balzata in testa alle classifiche in realtà un anno dopo la sua uscita, tanto che giovedì scorso Ozier era ospite a X Factor e l'abbiamo tutti ascoltato. Anche un video bellissimo questa canzone, un video che parla di un amore omosessuale, però è stato proposto da una nostra ascoltatrice, quindi non sono io che parlo sempre di omosessualità, perché Ozier è, diciamo, in prima linea contro l'omofobia. Vi ricordiamo che potete sempre consigliarci il vostro Si può fare in musica sui nostri social, oppure sui nostri social personali, quindi su quello di Alessio Maurizi, che è Ale Maurizi, oppure sul mio @Carlo Gabardini, oppure, come diciamo ormai da un paio di settimane, pro tempore su il Twitter di Federico Taddia, che è @Federico Taddia. Carlo Gabardini e Federico Taddia, questo Si può fare in diretta su Radio 24, l'Italia bella, l'Italia migliore, l'Italia che vale la pena raccontare. Oggi l'Italia anche che può cambiare attraverso i libri. Vi stiamo chiedendo di così suggerirci qual è il libro che vorreste regalare al vostro sindaco. Tante segnalazioni, tante idee, tanti titoli. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta in palio all'idea più bizzarra, più stravagante, più bella, due biglietti per la mostra di Van Gogh a Milano, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. Ma Si può fare è anche un programma di storie, e questa storia ci porta là, fino alla fine del mondo. Fino alla fine del mondo, sognando e correndo, mi toglie il respiro questa voglia di libertà. La fine del mondo, già stiamo vivendo, affronto la vita e tutto quello che arriverà. Scoprirò nel silenzio di un suono infinito, onda anomala del mio cammino, che alla fine destino non ho, ma in fondo ritroverò desideri perduti nel tempo, come foglie sospinte dal vento, verso un giorno che non finirà. La storia che vi vogliamo raccontare è la storia di un uomo alto, di un uomo con un sorriso bellissimo, di un uomo con gli occhi di ghiaccio, ma nel senso bello, nel senso di tutte quelle sfumature che il ghiaccio ti fa vedere, di un uomo che ha scelto l'avventura come stile di vita, di un uomo che ha scelto di attraversare la Groenlandia a piedi, di un uomo che ha scelto di rimanere a vivere in Groenlandia per oltre 40 anni per dare una mano agli ultimi che ha trovato là, gli abitanti Inuit, che avevano bisogno di una mano, che avevano bisogno di una dritta, che avevano bisogno di una speranza. Quest'uomo si chiama Robert Peroni, è un amico, ho avuto la fortuna di incontrarlo, intervistarlo più volte. Tutta la sua storia è raccontata in questo bel libro che si intitola Dove il vento grida più forte. Robert in questi giorni è tornato in Italia, abbiamo il piacere di averlo qua con noi. Ciao Robert. Ciao. Buongiorno. Buon sabato. Buongiorno. Sempre difficile, sempre complicato, sempre affascinante sintetizzare la tua storia, che hai raccontato tante volte. Da dove ti piace partire per dire chi sei? Beh, io sono nato in Alto Adige e adesso circa 20 anni ormai mi sono trasferito in Groenlandia e mi trovo molto bene. È un posto incantevole. Ben scandito questo incantevole. Ma da quant'è che vivi in Groenlandia? Io sono venuto circa 40 anni fa, 35 anni fa, però vivo veramente lì tutto l'anno da 20, 22, 23 anni circa. Ecco, quando dici lì, dov'è? Localizzati, facci vedere qual è il tuo angolo di paradiso. Allora, la Groenlandia è molto grande, 5-6 volte l'Italia, abbiamo solo 55.000 abitanti e tutti sulla costa naturalmente, perché l'altipiano è tutto ghiaccio, è abbastanza fresco e sulla costa abbiamo temperature miti e io vivo alla costa est, vicino all'Islanda, all'opposto lato dell'Islanda, in una cittadina che si chiama Tasiilaq Ammassalik, Siamo 3.500 abitanti in tutta la contea, così grande come l'Italia. E lì Robert ha aperto una casa particolare, la Red House. Una casa particolare perché non è solo un ostello, non è solo un albergo, non è solo un luogo da cui partire per delle esplorazioni, per le avventure. È molto di più, questo di più ce lo racconti fra un pochissimo. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, probabilmente quello che ha detto Robert Peroni quando ha incontrato gli Inuit, quando ha deciso di dedicare la loro vita a lui, a loro. Robert, hai messo la tua vita nelle loro mani? Più o meno sì, ecco, ma io mi trovo bene lì, non è niente di speciale, direi, è un posto come tanti altri, solo che è un po' più bello. È bellissima come descrizione. Un posto un po' più bello degli altri, però la tua Red House è diventato un punto di riferimento per gli Inuit, popolazione a rischio, popolazione che è stata martoriata anche dalle scelte politiche di questi anni, popolazione che ha conosciuto la tragedia dell'alcolismo, popolazione a cui tu hai dato una speranza proponendo occasioni di lavoro, di incontro, di socializzazione. Sì, giusto, la Casa Rossa, the Red House, non è solo un albergo, un ostello, un albergo, un rifugio, ma è un po' di più. Cioè, noi diamo tanto lavoro a tutti, cioè abbiamo circa 70 collaboratori per tutto l'anno, però siamo un po' una speranza per loro, perché loro non sapevano mai prendere in mano il futuro. Non c'è parola per futuro da noi in Groenlandia. Per questo vuol dire, loro lavorano oggi e vivono oggi, però non pensano al domani o al dopodomani. E la Casa Rossa è qualcosa, siamo partiti dal nulla, dal zero, tutti insieme, e siamo arrivati ormai a 52 letti, e facciamo, insomma, siamo la numero uno in Groenlandia dell'Est, e facciamo proprio, questa è la speranza per il futuro, dove va questo popolo. Noi l'uomo bianco abbiamo tolto tutto a loro, tutte le speranze, adesso bisogna riportarle le speranze, e questo è il mio lavoro, o fa parte del mio lavoro. Ma che lingua si parla in Groenlandia? Il groenlandese è una... Certo. Sì, è il groenlandese. Però noi abbiamo un'altra lingua, cioè ci sono, in Groenlandia ci sono tre lingue. Una è quella ufficiale, groenlandese, e la nostra lingua è il tunum, è una lingua non scritta, però si può scrivere, però è molto primitiva, molto, molto semplice, bella. Che tu hai imparato stando lì, immagino. Cioè, tu con loro parli in groenlandese o in questa lingua, sì, che io, sì, ovviamente non so nemmeno pronunciare. Questa che hai appena detto. Noi trattiamo in due lingue, quella lingua tecnica, in ufficio, per esempio, in cucina, quella è il danese, e l'inglese, e l'altro è il groenlandese quando parliamo di noi. Però non sono molto bravo, ma ce la faccio. Beh, direi che sei abbastanza bravo per dirci questa cosa che ci hai appena detto, bellissima, che loro non hanno una parola per il futuro. Cioè, è una popolazione che vive totalmente nel presente. Giusto. E forse è meglio, chi lo sa, c'è anche da chiederselo. Forse è meglio vivere nel presente, forse, piuttosto che pianificare il futuro, ma comunque... Robert, in cosa sei diventato Inuit tu? Ma ci sono tanti spunti interessanti, cioè loro vivono completamente diversi dall'uomo bianco, hanno delle idee anche diverse, anche il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di giudicare come la vita, la morte, l'amore, l'amicizia, cioè, sono delle cose che noi dobbiamo reimparare nella nostra società bianca. Noi abbiamo da imparare da loro, non loro da noi, anche loro da noi, però molto di più noi da loro. Spelling & Kupfer, la casa editrice con cui hai pubblicato Dove il vento grida più forte, che cos'è questo vento? Abbiamo due venti, abbiamo un vento che arriva dal mare, è il vento delle donne, che è molto più dolce, molto più gentile, un po' caldo, quello arriva solo a 100-150 km orari, non è così forte, e l'altro è l'uomo del vento, che arriva, è un vento catabatico dall'altipiano, che arriva fino a 300 km orari e spazza via tutto, freddo, brutale, forte, e quei due venti parlano a noi, cioè portano sull'altipiano invernale, è la sede proprio dei demoni, e il vento ci porta quella voce dei demoni. E, ecco, questo sarebbe il vento. Poi adesso il nuovo libro, il sì. nuovo libro sì. si chiama Il colore del ghiaccio. E, il colore del ghiaccio vuole proprio dire che la bellezza del ghiaccio, perché noi qui in città vediamo sempre il ghiaccio come qualcosa di freddo, negativo, scivolo, insomma, fa dei problemi. Invece il ghiaccio sono cristalli. È una cosa fantastica, sono miliardi di cristalli nel sole, e c'è dentro l'arcobaleno, e c'è dentro l'aurora boreale, è una cosa che è fantastica, e lì la possiamo vivere. Robert, quando tornerai in Groenlandia, quando riparti? Dopo Natale. Ok, quindi vai. Ah, resti un po', quindi. Stai qua, ti scaldi e appunto dopo Natale te ne vai in Groenlandia. Grazie davvero Robert, grazie mille per le tue parole. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Bello, molto bello. La lode del ghiaccio poi è stupenda, anche perché sì. dicendo qua in città, anche perché qua in città sostanzialmente il ghiaccio è per i cocktail in realtà. Esatto, non è che... tu pensavi a esatto. quello, ho visto, esatto. ho visto. Torniamo ai nostri libri da consigliare ai sindaci. 800 24 00 24, il numero verde che ha composto Alessandro da Milano. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, come si suol dire. Grazie. Sentito, allora il consiglio, il libro per il sindaco Pisapia è La Costituzione della Repubblica Italiana. In due parti, una dove dice che l'imposizione fiscale deve essere proporzionale al reddito, e l'altra in cui spiega che la Corte Costituzionale è il massimo organo giurisdizionale che fa, diciamo, legge, giurisprudenza. Bene. La Consulta per due volte ha sentenziato che tassare la tassa, cioè su tutte le imposte comunali mettere prima la tassa comunale e poi l'IVA, sì. è illegittimo e incostituzionale. Hanno preso illecitamente agli italiani, i comuni, circa 9 miliardi di euro. Chiunque si sia presentato al comune di appartenenza con in mano la sentenza della Consulta che fa, secondo la carta, legge, sì. gli hanno detto i soldi non te li ridaremo mai, finita la pratica. Questo è il consiglio per i sindaci, che si leggano la carta costituzionale. Molto tecnico, però ti ringraziamo lo stesso di questo cioè era bello in qualche trovare un modo per trasformarlo in poesia, nel senso che è molto chiaro il punto sulla tassazione, e però di regali la Costituzione, non so, il libro dell'inquietudine di Pessoa forse andava meglio, ecco. 800 24 00 24, questo è Si può fare. With my own two hands, make a better place. With my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands. Il volontariato è una delle anime di questo paese, il volontariato è anche una delle anime di questo programma, perché l'Italia migliore passa anche da lì, dai cittadini che si mettono in gioco. A Milano si è appena tenuta una 2 giorni dedicata al servizio volontario europeo, una 2 giorni organizzata dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del semestre europeo di presidenza italiana, con tanti ex volontari che hanno raccontato la loro esperienza proprio per rilanciare questa iniziativa, questa azione, questa esperienza. Hai fatto il volontario europeo? No, Carlo? Però quello che volevo dire è che questo è il primo caso, diciamo, di crossover radiofonico. Il crossover è quello che di solito nelle serie televisive i personaggi famosi di una serie televisiva entrano dentro in un'altra serie. Tipo Simpson, questo... e Futurama, una cosa esattamente, genere, okay? Perché questo praticamente è Si può fare un'altra Europa. È l'unione del programma di Federico che entra all'interno di questo programma che Si può fare, quindi ne sono felicissimo. Questo volevo dire. No, un ottimo pro. Io ti faccio il promo dell'altra Europa con questo, esatto, con questo tuo così, divagazione. E tra i tanti ospiti c'era anche, comunque, una delle persone che più sta rilanciando il desiderio, la voglia di servizio civile in Italia. Diamo il benvenuto qui a Si può fare al sottosegretario del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con delega alla gioventù, Luigi Bobba. Buongiorno Bobba, benvenuto all'altro. Buongiorno. Sto dicendo all'altra Buongiorno. Europa. Buongiorno. Si può fare un'altra Europa, è un nuovo programma, è una pillola all'interno di Si può fare, anche che poi verrà replicata dentro in altra Europa. Bobba, si può fare per lei cosa significa? Che si può fare, che è il titolo di questo programma, credo che sia un inno al volontariato. Sì, credo proprio che l'Europa non si costruisce solo con regolamenti, con l'euro, con l'apertura dei mercati, ma si costruisce prima di tutto attraverso le persone. E l'esperienza del servizio volontario europeo è l'esperienza di tanti giovani che hanno, diciamo, preso lo zaino in spalla e hanno svolto un servizio in un paese diverso dal proprio, conoscendo cultura, modalità di vivere, oltre che di fare un'opera di solidarietà nei confronti di persone, di cittadini particolarmente in difficoltà. E credo che questo sia il modo di costruire un'altra Europa. Tra l'altro, proprio recentemente, sempre a Milano, 15 giorni fa, abbiamo ripreso la proposta fatta dal Presidente del Consiglio Renzi di fronte al Parlamento europeo nel discorso programmatico del 3 di luglio, del semestre di presidenza italiano, l'idea di un vero e proprio servizio civile europeo. Oggi i servizi civili sono nazionali e può nascere un'altra Europa, forse sull'onda, diciamo, di un servizio civile che possa essere realizzato in più paesi, insomma un Erasmus del servizio civile. Certo. È vero. Ma rimanendo in Italia si fa abbastanza servizio civile o è passata un po', adesso mi passi il termine, la moda, anche se non è il termine esatto, però c'è stato, mi sembra, un momento negli anni passati dove questa esigenza, questa voglia, questo desiderio, questa eco del servizio civile era molto, soprattutto molto più quando vivo. Era obbligatorio ed era in sostituzione al servizio militare, mm-hmm, diciamo. Se un po'. Guarda, io sono un obiettore di coscienza in congedo, quindi conosco bene l'esperienza, avendo fatto allora, quando non c'era ancora la legge sul servizio civile volontario, ma c'era, diciamo, il servizio civile come obbligatorio, come alternativa alla leva militare. Poi dal 2002 è nata appunto la legge sul servizio civile nazionale, che ha conosciuto stagioni diverse, alcune belle, altre meno belle. Devo dire che diciamo dall'anno scorso, quando è ripreso un'attività più efficace, abbiamo più di 15.000 ragazzi in servizio civile, ma il problema è che le domande per fare servizio civile non sono affatto diminuite, sono ancora sempre intorno agli 80-90.000, quindi noi riusciamo a soddisfare un giovane, a fargli fare, a far fare questa esperienza un giovane su sei, no? Di quelli che volontariamente lo vogliono fare. Da adesso, con i nuovi bandi, quelli che sono usciti proprio ieri e quelli che faremo uscire all'inizio di gennaio, avremo nel 2015 40-45 mila giovani in servizio. L'obiettivo della riforma del governo, che è attualmente in discussione alla Camera, è di arrivare entro il 2017 a circa 100.000 giovani, cioè in praticamente a, diciamo, corrispondere a tutta quella diciamo domanda o domande che ogni anno vengono fatte per fare un servizio civile così come è strutturato nel nostro paese. Ricordo che gli attori principali sono le organizzazioni associative di terzo settore che prendono in carico questi giovani e li mobilitano, li impegnano in un'attività di servizio per la comunità. Insomma, credo sia una boccata d'ossigeno fondamentale per una nazione questo, perché sono energie creative, sono voglia di fare, voglia di cambiare. Assolutamente sì, tant'è che noi l'abbiamo anche inserita come possibile misura che le regioni possono utilizzare nel programma Garanzia Giovani, no? Il programma europeo che il governo italiano ha avviato dal maggio di quest'anno per offrire delle opportunità di lavoro, di preinserimento al lavoro per i giovani, si può utilizzare anche il servizio civile come misura. E proprio i bandi di ieri riguardano circa 6.000 giovani che potranno fare, diciamo così, servizio civile utilizzando le risorse del programma Garanzia Giovani. Fra l'altro nelle settimane prossime avremo dei programmi mirati, specifici, fatti con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'immigrazione, con circa 3.000 giovani che saranno, diciamo, impegnati proprio in attività specifiche mirate al campo ambientale, dei beni culturali e alle problematiche collegate all'immigrazione. Ma mi sembra un'ottima notizia, soprattutto perché anche il servizio militare, in fondo anche in Italia, ai tempi, diciamo, serviva perché gli italiani almeno avessero la possibilità di vedere altri pezzi d'Italia e uscire per una volta dal loro paesino, parlo ovviamente di altri tempi, e quindi in qualche modo un servizio europeo, civile, volontario potrebbe diventare un motivo, diciamo, fatta l'Europa per fare gli europei, quindi mi sembra utile. Tra l'altro il Dipartimento del Servizio Civile Nazionale è partner di un programma finanziato dalla Commissione Europea per fare un esperimento di servizio civile, no? Sono 200 giovani che potranno fare servizio in Italia e in altri due paesi, in Francia e in Germania, che sono i partner di questo progetto. È una piccola cosa, perché 200 giovani certo non sono molto, ma in fondo anche Erasmus era nato così, un programmino negli scantinati dell'allora comunità europea, e oggi sono 3 milioni i ragazzi, i giovani che hanno potuto studiare per una parte del loro percorso in un altro paese. Vorremmo che anche il servizio civile europeo fosse un nuovo Erasmus, un nuovo caso in cui l'Europa si costruisce dal basso, dal cuore, dalle menti, dai giovani che partono, vanno, decidono di fare qualcosa di positivo non solo per il loro paese, ma anche in un altro paese, in una prospettiva che l'appartenenza non è solo nazionale, ma è europea. Bob, lei dove fece il servizio civile? Che ricordo ha? Un ricordo molto bello, l'ho fatto una parte, diciamo, all'ente di formazione professionale delle ACLI, l'ENAIP, sì, facendo, diciamo, un lavoro di accompagnamento verso il lavoro di questi ragazzi a Torino, e poi successivamente all'interno delle ACLI a Roma. Ok, così l'abbiamo fatto un po' viaggiare nel tempo. Giusto. Grazie al sottosegretario del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con delega alla gioventù, Luigi Bobba. Buon sabato, buon lavoro. Arrivederci. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua, come si può fare? Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare. La domanda di oggi: quale libro vorreste regalare al vostro sindaco? Io non ho ancora detto il mio. Ah, giusto. Adesso, al di là del mio sindaco, io ho un sindaco in... No, ma dici anche a quale? No, io abito a cavallo tra due comuni, nel senso che appartengo a un comune, però dopo che creerei malumore di paese, sai, queste cose che... No, io hai piedi in due campidogli, sì, diciamo. Bravo. Regalerei la Compagnia dei Celestini di Benny. Perché c'è la strada, c'è la palastrada, c'è, capito, la strada che diventa spazio ludico, spazio di incontro, spazio anche di non regole, dove però ci sono delle regole, sono altre regole, c'è una bella convivenza. Sì, partirei da lì. Invece il nostro ascoltatore assiduo, che è su Twitter, KimCorea83, che ci scrive: vi avrei telefonato proprio per consigliare il libro di Robert Peroni, Dove il vento grida più forte, e ce l'ha scritto prima che noi sentissimo addirittura lo stesso Robert Peroni in diretta ai nostri microfoni. Fantastico. Quindi è fantastico. Anche se il messaggio della giornata rimane: ma Alessio ha preso l'Ebola, che è a casa da 20 giorni. Esatto, no? Volevo anche tranquillizzare, perché in tanti scrivono gli sms dicendo dov'è, è in convalescenza ma in via di guarigione, quindi il weekend prossimo dovrebbe assolutamente tornare. Dovete aspettare ancora, solamente oggi e domani saremo sempre Federico Taddia ed io a fare Si può fare. Andiamo a Pistoia, a condurre. Andiamo a Pistoia, dove ci chiama Stefano per dirci quale libro vorrebbe regalare al suo sindaco. 800 24 00 24. Ciao Stefano, buon sabato. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Grazie, due complimenti. Grazie. Allora, la mia è una provocazione. La mia è una provocazione ed è questa. Allora, io vorrei dedicare a tutti i sindaci, non a uno in particolar modo, a tutti i sindaci d'Italia, sì, il libro I 10 comandamenti. Proprio quello? Ma i 10 che conosciamo tutti, sì, o è un altro, sì, libro che magari... No, I 10 comandamenti. È un estratto, quindi, diciamo, è un sunto di un altro libro che si chiama Bibbia, giusto? Sì, perfetto. Chi è l'autore? Però, sai quella domanda, chi è l'autore? Però vorrei che si soffermasse sul no rubare. Ecco, la provocazione è questa, insomma. Che è il settimo, è giusto? Sì, sto rischiando, ho rischiato, però mi sembra di ricordare che fosse il settimo. Mi sembra che, insomma, per i periodi che stiamo passando, abbastanza attinente, diciamo, insomma, anche al programma, da dedicare a un sindaco, visto che sono amministratori locali, e con tutto quello, insomma, che è successo ora negli ultimi anni, insomma, mi sembrava una cosina, una bella provocazione, diciamo. Giusto, ci aggiungerei, anche se non è esattamente un comandamento, è un po' modificato, ci aggiungerei non desiderare la roba da altri, ecco, così, che mi sembra... Anche, sì, sì. Cioè, anche non commettere atti pubblici impuri, insomma, cioè... dopo si può anche divagare sul... atti in pubblico, forse, semplicemente. Grazie Stefano, grazie per la tua provocazione. Mille. 800 24 00 24. Questo si può fare. Per accogliere il proprio ospite, stiamo parlando di Torino, stiamo parlando di una di quelle iniziative che Si può fare piacciono, quando i dipendenti pubblici, in questo caso, hanno idee, hanno iniziative, si mettono in gioco, e questo mettersi in gioco diventa contagioso, perché ogni tanto, no, il tuo vicino di scrivania ti guardi, no, non è, cioè, guarda, dai, stai tranquillo, no, qui invece ci si scatena, si ha voglia di stare tranquilli per niente, di fare e di dare di più. Il progetto si chiama Innova.to, innovato, idee non comuni, è stato ideato da Fabrizio Barbiero e dal sottoscritto, così dice la mail, sottoscritto non sono io, ma il sottoscritto è Michele. Fatti bene, ciao Michele. Ciao Federico. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, qual è stata l'idea che tu e Fabrizio avete avuto e avete rilanciato ai vostri colleghi? Ma è proprio come hai detto tu, eravamo vicini di banco ad un corso sulle smart city, sulle città intelligenti, e ci raccontavano di come costruire la comunità intelligente. Per qualche motivo non si pensa mai alla pubblica amministrazione come una comunità che possa in qualche modo far nascere delle idee, del cambiamento. E questo è anche un po' strano, detto almeno per la città di Torino, dove i dipendenti sono 10.500, e quindi con Fabrizio ci siamo detti: perché non possono essere 10.500 potenziali innovatori? Cioè 10.500 è già una smart city, cioè è già una comunità... Non è male, è un bel paese, mettiamo così, un paese abbastanza grande. Per cui a sprombattuto siamo andati a parlarne all'assessore all'innovazione della città di Torino, Enzo Lavolta, il quale è rimasto piacevolmente colpito e nell'arco di breve l'abbiamo raccontato al sindaco Piero Fassino, al direttore generale Ingegner Montanari, all'assessore del personale Gianguido Passoni, e questa cosa ha creato, come dire, un certo fermento. Ci avete lanciato un concorso di idee tra i dipendenti comunali, di fatto? Sì, esattamente così. Abbiamo costruito una piattaforma sulla rete intranet interna dove chiunque, ad eccezione però dei dirigenti, noi volevamo che le idee arrivassero dal basso, come si suol dire, tutti potevano partecipare presentando la propria proposta, la propria idea progettuale. La questione era che però, essendo una competizione, per renderla un po' allettante, avevamo bisogno di trovare qualche premio. Sì. E in realtà ci hanno fatto fare questo progetto a budget zero, per cui anche qui con Fabrizio ci siamo dovuti inventare, diciamo così, una soluzione, e abbiamo scelto di parlarne ad un po' di partner privati, pensando che, essendo un'idea intelligente, potesse essere condivisa. Fortunatamente è stato così, perché soggetti come Enel, Huawei, Unicredit... Insomma, avete trovato un po' di sponsor che hanno messo così a disposizione qualche premio, ma premi semplici, leggevo biciclette elettriche, smartphone, insomma, piccole cose. Sono entrato un po' l'incentivo a partecipare, sono arrivati 71 progetti, sono stati presentati, e un sacco di dipendenti che si sono messi in gioco. E quali sono state le idee che la giuria poi ha premiato? Ma io ti racconto e vi racconto quella che, diciamo, è arrivata, diciamo così, per prima, sì, che mi è piaciuta perché innanzitutto è stata un'idea intercettata da un collega che da sempre fa l'educatore e lavora alle politiche giovanili, però è rimasto incuriosito da quello che è l'introito della città di Torino che arriva dal cosiddetto 5 per 1000. Ha notato che soltanto 5.000 contribuenti, per un totale di 166.000 euro nel 2013, hanno scelto di dare appunto il 5 per 1000 e destinarlo alla città di Torino, quando in realtà altri soggetti, altre associazioni ne percepiscono di più. Quindi lui si è posto una domanda: probabilmente l'amministrazione deve essere trasparente, deve dire che cosa fa con quei soldi, dove li destina, ma non in maniera, come dire, generica, deve dire quali strade esattamente vuole aggiustare, quali servizi sociali realmente vuole risolvere, quali piscine, quali aree verdi migliorare. Quindi più un discorso di cittadinanza attiva, che però addirittura crea un introito maggiore per la città. Un'idea semplice, come deve essere di fatto innovazione, ma che di fatto è stata proposta da un dipendente della città di Torino. Insomma, questo credo che sia il vero cuore di questo progetto. Torinoclick.it per avere informazioni sul progetto. Credo sia stata una bella soddisfazione, no? Per voi, Michele, vi siete sentiti protagonisti, sì, della vostra città, del vostro lavoro, della sì, vostra quotidianità? Guarda, siamo molto contenti perché continuiamo ad avere riscontro. Anche il Guardian nella sua sezione Cities ci ha citato come best practice, però se posso dire, la cosa veramente più bella è stata l'emozione che ho visto negli occhi dei colleghi che si sono visti riconoscere delle idee. Questo lo dicevo con Fabrizio l'altro giorno. Secondo me questo è il vero motivo per cui è valsa la pena presentare il progetto innovato. Si può fare. Ciao Michele, grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Buon ciao, sabato. Carlo, ciao, ciao Federico, ciao. Ciao. Le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Si può fare. Parlare con il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Un paese migliore oggi raccontato attraverso i libri. Carlo, andiamo, abbiamo un paio di ascoltatori, li prendiamo al volo? Assolutamente sì, che dobbiamo ancora dare il premio. Ricordiamo che c'è in palio una coppia di biglietti per la mostra di Van Gogh. Gianfranco dalla provincia di Torino, ciao e benvenuto. Sì, buongiorno e saluti anche a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, grazie. Qual è il libro che vorresti consigliare, allora, regalare a tuo figlio? Un libretto molto piccolo, molto piacevole, che si chiama Volevo solo vendere la pizza. Purtroppo non mi ricordo l'autore perché in questo momento sono in macchina. Ed è un libretto. Ma è un titolo racconta, bellissimo comunque. Sì, è un libretto che racconta le vicissitudini a sfondo tragicomico, sì, di un militante di sinistra che vuole fare il piccolo imprenditore. Mm-hmm. Quindi lo consiglio in generale a tutti quelli che lavorano nella pubblica amministrazione. Okay. Di sinistra e di destra, indifferentemente? Di sinistra, di destra, di centro, ormai lei non c'è stessa nessuna differenza. No? E che giorno dopo giorno ci impediscono di lavorare, di fare le cose, di tutto, insomma. Va bene. Vogliono insegnarci cosa dobbiamo fare dalla culla alla tomba e via dicendo. Grazie mille, volevo solo vendere la pizza. Ciao, grazie Gianfranco. Invece andiamo a Cuneo da Roberto. Ciao Roberto. Ciao, ciao Federico, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Carlo. Qual è la tua dritta? Ma io volevo consigliare non tanto al sindaco, ma a tutta l'amministrazione comunale, un libro che è stato scritto da Franco e Andrea Antonello, sì, e si chiama Sono graditi i visi sorridenti. Non conosco il libro, ma il titolo mi sembra... Cioè, è per il titolo o è per il suo contenuto che lo consigli? Allora, per entrambe le cose. Mm. Per il suo contenuto, perché Franco e Andrea sono un papà e un ragazzo autistico che hanno combattuto e stanno combattendo contro l'autismo, e lo fanno con quello spirito lì, cioè con lo spirito, non con lo spirito di chi si lascia andare, ma con lo spirito di chi combatte, tira fuori le unghie e i denti, e non solo le unghie e i denti, cioè non usa i denti per mordere, ma lui usa i denti per sorridere, insomma per dire ragazzi tiriamoci sulle maniche, diamoci da fare, perché si può fare, si può combattere contro l'autismo. Tra l'altro questo libro e Franco e Andrea sono venuti recentemente a Cuneo, perché adesso c'è una manifestazione che si chiama Scrittori in Città. Ero lì questa notte, ero lì ieri. Certo. Ieri ha ancora tenuto un incontro, è andata mia moglie. Abbiamo girato le busche, ha vinto lei, non ho vinto io, quindi è andata lei. Sembra tutto un inciuccio, ma non è così, non insomma. No, ma ha detto che l'ha visto da lontano. Io gli ho detto, ma no, ma guarda che ci devo andare io, che l'ascolto tutte le mattine. Non c'è stato verso. C'è qua anche tua moglie, ma questo è uno spoiler, non possiamo dirlo. È possibile perché mi dice che va a lavorare sabato mattina perché insegna. Io sono solo a casa con mia figlia. Perfetto, non entriamo nei particolari di tua moglie con Federico Taddia, che sennò è diventa troppo grande. Diventa grande. Comunque, però... no Roberto, guarda, siccome il tempo sta chiudendo, però direi che siccome Roberto e moglie si guadagnano la coppia di biglietti per la mostra di Van Gogh, che mi sembra, poi il libro di questo viaggio anche di Franco e Andrea Antonello, insomma un viaggio bellissimo, una storia molto bella, e i visi sorridenti ci piacciono, ci piacciono moltissimo, cerchiamo anche di trasmettere con Si può fare. Grazie Roberto, grazie mille. Antonio, e chiudiamo. Qualcuno penserà che tu abbia dato i biglietti a loro di modo che la moglie venga qua poi a vedere la mostra di Van Gogh a Milano e tu possa incontrarla, ma comunque questo non importa. Incentiviamo questo sottotesto. Perfetto. Mi piace. E l'ultimo ospite con cui chiudiamo questa puntata, un premio, un progetto, un'idea innovativa, perché sono arrivati i risultati del concorso Edison Start, il concorso per i progetti più innovativi e sostenibili sia dal punto di vista economico sia sociale e ambientale nell'ambito dell'energia, dello sviluppo sociale e culturale. Sono stati assegnati tre premi, tre diversi progetti. Uno di questi si chiama Fiori di Campo, un progetto di turismo etico, e con noi c'è appunto l'ideatore e il protagonista di questo progetto. Diamo il benvenuto a Francesco Costantino. Ciao Francesco. Salve. Buongiorno. Hai un minuto e mezzo per raccontarci che cos'è Fiori di Campo. Allora, Fiori di Campo è il nome della poesia di Pellegrini Passato, vittima di mafia 93, ma è il nome di un bene confiscato a Marina di Cinisi, in provincia di Palermo. Sì. È un bene confiscato che noi abbiamo vinto nel 2012 grazie a un bando pubblico e che ora stiamo gestendo come cooperativa. La cooperativa sociale Liberamente, di cui io sono socio. Vogliamo fare del turismo sociale ed etico, cioè un turismo a basso costo, rivolto alle fasce deboli, alle famiglie meno ambienti, dove i temi che tratteremo, perché oltre alla vacanza ci sarà, vorremmo fare formazione, come dire, soft sui temi della legalità e comunque del consumo critico, e spingere verso una e fare capire alle persone che i beni confiscati sono un patrimonio comune, un patrimonio anche di loro, quindi utilizzarlo al massimo e aprendo la porta a tutti. Certo, i beni confiscati come spazi, come luoghi, come risorse da cui ripartire e da restituire alla comunità con idee innovative, con idee che abbiano impatto sociale, così come Fiori di Campo. Grazie davvero Francesco, complimenti a te e a tutto il gruppo di lavoro. Grazie. Grazie. edisonstarte.it/idee per conoscere gli 841 progetti che hanno partecipato a questo concorso, vedere chi ha vinto, vedere le tante idee, le tante buone pratiche imitabili e replicabili. Speriamo, imitatele, anzi direi, è un invito. Carlo, ci siamo, grazie come sempre, ringraziamo tutta la squadra, Giorgio De Luca, Lucia Tolve, Andrea Piana, Paolo Corleoni, oggi in assistenza, l'appuntamento è a domani. Se sei domani, pronto, siamo sempre noi, giusto? Avrai un weekend tranquillo? Ma sì. Ma il mio weekend, si sa, inizia domenica quando finisce Si può fare e dura fino al sabato dopo quando rinizia Si può fare, quindi il mio weekend non è adesso, io oggi e domani lavoro. Questo è il concetto di weekend lungo. Esatto. L'appuntamento con Si può fare è a domani, con me invece l'altra Europa tra un paio d'ore, adesso ho il GR e poi Oscar Giannino. Questo è il sabato di Radio 24. Ciao! Ciao!